questo clima molto intimo nella nostra biblioteca, che insomma in questo periodo attende con ansia il polo bibliotecario, ma nel frattempo ci diamo da fare, e questo grazie anche a tante associazioni che sono presenti sul territorio, che sono attivissime. Una di queste è proprio l'Associazione degli Studi Grafologici, e questa sera è con noi la signora Rosa Maria Teresa, giusto? L'ho detto giusto? E con noi anche il signor Messler, che curerà questa serata introduttiva, anche perché poi è in programma appunto un corso specifico sulla grafologia, terreno affascinantissimo. Non è la prima volta che ci confrontiamo e che avevamo così insieme, in sinergia con l'associazione, creato delle occasioni per capire, comprendere cos'è questa scienza e questo tipo di approccio alla persona, e abbiamo sempre avuto un buon riscontro anche di pubblico. E volevo anche sottolineare che ci farebbe piacere avere anche dalle associazioni, in questo caso specifico dell'associazione grafologica, delle indicazioni bibliografiche, perché la nostra vita è questa: cercare sempre dei documenti nuovi, delle nuove opportunità di offrire alle persone così degli stimoli, e quindi anche questo suggerimento dei professionisti di letture che possono essere utili ci fa piacere, ci arricchisce, ecco, nei nostri servizi. Quindi più avanti insomma avremo una bibliografia e potremo così esaudire anche delle richieste in questo settore. Qualcosa abbiamo già, perché abbiamo preparato una vetrina, e comunque se consultate il nostro catalogo trovate del materiale. Io lascio poi qui sul tavolo alcune cartoline che sono i nostri così prossimi appuntamenti, perché faccio sempre gli spot elettorali, stavo per dire. Scusate, ma ormai dobbiamo pensare al sindaco, e siamo appena usciti dalla tornata provinciale, quindi siamo sempre in ebollizione, c'è un presidente della Repubblica da nominare, insomma c'è sempre qualcosa in corso. Ecco, a noi fa molto piacere, abbiamo così questa sera, siamo riusciti ad organizzarla in questa sede che rimane sempre la nostra preferita, anche se è piccola, stretta, nascosta, non si trova, tutte le magagne possibili, però si sta bene, sì. E un valore aggiunto è il fatto che ci sono i libri, per cui poi una persona può chiedere e trovare subito quello che può interessare. Purtroppo siamo un po' in questo periodo raminghi e andiamo in giro, siamo una biblioteca migrante, per cui chiedo ospitalità ogni tanto al Trevi, oppure al Teatro Cristallo, al Liceo Classico, ma anche lì abbiamo visto che il binomio funziona, ecco. Bene, io vi lascio alla serata, al nostro ospite che introdurrà, ecco, alla grafologia. Devo dire che ogni tanto siamo tentati tutti di conoscere, no? Gli aspetti più reconditi di chi ci sta di fronte. Abbiamo paura anche, però. Sì, comunque oggi come oggi si scrivono molte mail, che dire, sì, però ci sono anche i pizzini, dicevo prima una collega, ogni tanto arrivano i pizzini dentro nelle buste e dici, ma c'era ben capire qualcuno. Anche se poi è vero che anche la persona genuina riesce subito a trasmettere quello che ha, no? I suoi punti di forza, qualche sua debolezza, che si accetta perché insomma siamo un po' tutti originali. Bene, vi ringrazio, grazie, spero di rivedervi qua in biblioteca anche per altre occasioni, e buona fortuna all'associazione per il grazie. Grazie. Grazie. Arrivederci, grazie a voi. Bene, buonasera a tutti. Allora, comincio col presentarmi, poi però devo chiedere qualcosa anche a voi. Allora, io sono Roberto Nesler, tanti mi conoscono già, e ho fatto la formazione a Urbino, la formazione triennale che è prevista per diventare grafologi. Ci sono diverse scuole in Italia, a Verona, Padova, Milano, eccetera. E, ecco, io avrei due proposte da farvi subito, così vi faccio scegliere. Mi piace scegliere. Allora, io ho preparato la presentazione con un po' tutta la descrizione di che cos'è in questa ora, quanto abbiamo a proposito di tempo? Un'ora e mezza? Sì. Ok, no, giusto per non farvi stare qua fino a mezzanotte. Esatto. Ecco, e naturalmente diciamo, per me il tempo è prezioso, il vostro tempo è prezioso, nel senso che volevo, anche il mio desiderio era lasciarvi qualcosa, cosa che in grafologia è un po' un problema in un'ora e mezza spiegare che cos'è la grafologia, però lo stesso mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di utile per voi. Allora, le proposte, vi dico subito. Allora, qui c'è tutta una presentazione con alcuni esempi di scritture, un po' che cosa di come si lavora con la grafologia, che cosa fa e qual è lo strumento, e un po', diciamo, una panoramica generale. E questa è una cosa. L'altra cosa sarebbe che io vi do un foglio a tutti e vi detto qualcosa, così è meno problematico, nel senso che poi in grafologia il contenuto è relativo, basta che la scrittura sia spontanea, poi il testo non è che il grafologo legge il testo, lo legge anche quando una persona ha delle domande da fare, allora si legge il testo, però è relativo. E poi, allora, io direi, l'idea è questa: vi lascio il foglio, ognuno scrive 4-5 righe, io ho detto, libri qua ce n'è e poi chi vuole me lo dà e io lo faccio alcune considerazioni, e chi invece non vuole darmelo se lo tiene e si guarda per sé le considerazioni. Non farò delle, non massacrerò nessuno, quindi non è che è una cosa così gravosa, no? Anche perché poi questo piccolo esperimento si potrebbe fare proprio per vedere per avere un'idea, non per andare in profondità, perché per andare in profondità ci vuole uno studio di decine di ore per misurare, valutare, verificare, eccetera eccetera, ma del metodo poi magari qualcosina vi dico. Allora, siete d'accordo per, ecco, con la libertà poi di anche non darlo. Professore, posso solo chiedere una sì, cosa? Prego. La grafologia è una scienza? La grafologia è una scienza. Sì. Non è che andiamo quasi nell'esoterismo. Io so che ai legali vengono fatte molte interpretazioni di scrittura, no? E hanno valore legale. Certo. Però è una scienza, allora, come la matematica. Questa sera cercherò di spiegare come che la grafologia è una scienza. Grazie. Allora, dedicherò 10 minuti alla scientificità della grafologia, anche perché ci sono le scuole riconosciute e poi c'è l'albo professionale, sì, diciamo, che riconosce la figura del grafologo, e non potrebbe, se non fosse scientifica, diciamo, questo vabbè è una piccola deduzione, avere questo riconoscimento. Moretti, che è il fondatore della grafologia italiana, ci ha messo 50 anni, questo è il suo manuale, questo è il suo trattato di grafologia, per rendere la grafologia trasmissibile e con un metodo misurabile. Questo era il suo intento e ci è riuscito. 50. Quindi questo già è una parziale risposta, poi magari entriamo più nel dettaglio. Grazie. Ecco, allora, visto che siete tutte d'accordo, anche al di là della, avete sempre la possibilità, da voi avete sempre la possibilità di non consegnarlo, quindi con molta libertà, però insomma mi sembra, non voglio escludere nessuno dei presenti. Allora, è chiaro che il corsivo è molto più espressivo della persona, poi se riuscite a mettervi sotto qualcosa, certo che se uno non scrive proprio più in corsivo, perché anche noi non facciamo, ecco, esatto, se riuscite allora vi do alcune indicazioni di cosa poi mi scrivete sotto. Allora, mi scrivete sotto se la vostra scrittura abituale, il corsivo, non scrivete niente, perché così resta più a un modo. Allora, non siamo d'accordo. No, infatti, allora, sì, sarebbe da mettere solo un po' di buonasera. Allora, che non ha? Lei ce l'ha? Sì, sì. Potrei scrivere anch'io? No, io devo dettare. Ah, ecco. Così? Sì, abbiamo bisogno della sua scrittura. Perché non qua nessuno ci sta. Allora, io? Eccoci qua. Allora, io ho preso un libro a caso, vi ho detto una cosa a caso, tanto il testo non ha importanza. E... Chiamo nome e cognome? No, che resti anonimo, così dopo insomma non abbiamo problemi di nessun tipo. Allora, siete tutti pronti? Sì. Ok. Allora, non mi sembra un buon motivo per avercela con te. Prima ti ha guardato in un modo, se avesse potuto incenerirti, puntini, più lento. Ti ha guardato in un modo, virgola. Se avesse potuto incenerirti. Puntini. Incenerirti. Perché non conosci il resto della storia? È passato un mesetto, mi ero dimenticato dell'accaduto. È lo stesso, fate voi. Mi ero dimenticato dell'accaduto. Un pomeriggio entra in negozio un altro tizio. Piccoletto, pelato, anche lui con tanto di baffetti. Non è lo stesso, vada pure dietro. Benissimo. Con tanto di baffetti. E ci fermiamo qui. Non vi tedio. Ecco, rimetto a posto il libro. Non dobbiamo scrivere scrittura abituale? Posso? Sì. Scrittura abituale? Sì. No. Ho pensato che basta così. Non vuoi il nome? No, niente nome. Cancellare. Così resta anonimo. Grazie. Così diventa molto più carino. Allora raccolgo dall'altra. Grazie. Ecco, poi dici un'altra cosa, una cosa alla volta. Grazie. Chiedo scusa, grazie mille. Appena la finiamo? Ah, me la date, grazie. Alla fine, se volete scrivere. A posto. Ecco, non è che... Perfetto, grazie mille. Oh, allora lasciamo in caldo le scritture, le lasciamo qui per maturare dopo una piccola introduzione che vi faccio, se no è troppo un salto nel buio. Allora, riprendendo il discorso sulla scientificità, allora Moretti, Girolamo Moretti, che è il fondatore del metodo grafologico italiano, è nato alla fine del 1800. In quel periodo, più o meno in una trentina d'anni prima e dopo, sono nate tutte le scuole grafologiche, quella francese, quella tedesca, quella svizzera, eccetera. Sono nate proprio con un intento di rendere la grafologia scientifica, perché già tantissimi secoli prima avevano visto che c'era una correlazione tra la scrittura e la personalità, però non erano mai riusciti a costruire un metodo, no? Finché invece questi fondatori hanno fatto questo grande sforzo, no? Di vedere tutte le cose. Allora Moretti cosa ha fatto? Ha visto che ci sono delle caratteristiche in ogni scrittura, le ha codificate, come per esempio, allora aspettate che vi faccio vedere una scrittura subito, eccola qua, prendiamo questa che è la scrittura di Freud. Allora sono le classiche scritture che si fanno vedere, perché allora la scrittura di Freud, prendiamo questa come esempio. Allora Moretti ha detto: ok, ci sono 100 caratteristiche circa, numero più numero meno, da rilevare da una scrittura. Lui ha detto: si procede così. Allora abbiamo il segno curva e angolosa, che è il primo che si insegna, no? Allora voi vedete qui, si guarda, questa è una O, no? E si guarda se è tonda come un cerchio, diciamo, di Giotto, si dà 10 decimi, e poi man mano che si appuntisce il grado diminuisce. Ve la dico in maniera un po' così, insomma, no? Perché poi quando si insegna c'è tutto il sistema per la misurazione esatta. Allora qui vedete che c'è una O molto angolosa, stretta e angolosa. Allora questo sarebbe una scrittura più angolosa che curva. La scrittura curva, e guardiamo le O e le A, indica quello che anche simbolicamente noi, diciamo, subito ci viene in mente con la curva: la morbidezza, l'accoglienza, la maternità, la capacità di insomma tutte queste cose. Che l'angolosità invece richiama la spigolosità, alla determinazione, eccetera, determinazione, passatemela, ma insomma. E qual è il movimento che lui ha capito? Perché poi negli studi si può andare in profondità, e dice: se uno invece che seguire il modello scolastico, che sarebbe di fare la tonda, quando arriva al rigo di base, il rigo di base è il rigo su cui si scrive, e ha uno scatto per cui fa l'angolo, è proprio una reattività. E invece che andare così tranquillo, il rigo di base simbolicamente è la realtà, perché c'è tutta una simbologia dietro la scrittura, dove è stata studiata una corrispondenza poi molto precisa con la realtà. Allora fate conto, scrive la A, invece che fare il tondo si ferma, tac. E allora cos'è? È una reattività. Allora una persona che è reattiva, con tutto quello che la reattività comporta il fatto che una persona è reattiva cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente una persona che reagisce agli stimoli in maniera viene sollecitata facilmente, ha una certa forza di imporsi, no? Però anche è un movimento di difesa, perché il movimento armonico sarebbe quello tondo, quello onduloso è un movimento di difesa. Vi dico delle cose non esattissime, ma se no non la finisco più, tanto per darvi un'idea. Ecco, e poi man mano che si va avanti lui guarda tutta una serie di altre, vi dico 100, che una è quanta è la pressione, che indica l'energia vitale, poi la vedremo nei vostri scritti meglio, perché dalla proiezione non si può vedere, nel senso che se uno ha una energia vitale forte schiaccerà di più, se uno ha un'energia vitale più delicata schiaccerà di meno, molto semplice, e questo si vede, sono le prime cose che si guardano. Poi come va il rigo, ci sono tanti andamenti del rigo, e ogni andamento, ogni struttura va osservata, perché in ogni andamento c'è un significato diverso che è stato codificato. Allora c'è chi sale, c'è chi scende, c'è chi va a onde, e ognuno ha un suo significato preciso. Poi si guardano tutti gli spazi, è una cosa molto importante, si guarda quanto spazio c'è all'interno della lettera con una formuletta matematica, perché bisogna fare una proporzione, e da quella proporzione si danno indicazioni per vedere la recettività della persona. Si vede quante informazioni una persona è in grado di recepire. Poi si guarda cosa ne fa di queste informazioni. Moretti ha fatto una cosa molto bella, a differenza di altre scuole grafologiche, che lui ha diviso tutti i segni, tutti i significati in aspetti che riguardano l'intelligenza. Adesso noi non diremo più intelligenza, diremo, lui l'ha definita così, perché dovete pensare che l'ha scritto nel, non so se nel 21, il primo manuale, insomma i termini poi sono cambiati, ma il significato, dico non 100 ma quasi, esatto, adesso diremo gli aspetti non tanto intellettivi ma gli aspetti cognitivi, diremo, no? Dagli aspetti lui dice sentimento, ma anche qui noi dobbiamo, Moretti bisogna un po' capirlo, non è fruibilissimo perché bisogna capire la sua terminologia, ma intende gli aspetti emotivi, e questo è un grande pregio, perché lui dice ogni segno ha un significato sia dal punto di vista cognitivo ma sia anche dal punto di vista emotivo, affettivo. Poi faremo qualche esempio, spero. E allora l'andamento del rigo, e poi per esempio gli spazi, lui dice dobbiamo misurare, il grafologo misura proprio con la carta millimetrata, con lente di ingrandimento, quanti decimi di millimetri ci sono tra una lettera e l'altra, perché l'andamento della lettera, il collegamento, allora il modello scolastico prevede che si scriva una lettera, poi la si collega con la lettera successiva. E qui bisogna vedere se una persona lascia tanto spazio, poco spazio, e simbolicamente la lettera è l'io e la lettera successiva è l'andamento verso il tu. E dopo vedremo in alcune scritture magari qualche aspetto. Questo vuol dire che, per esempio, Freud, sappiamo anche dalla biografia, che era una persona spigolosa, era una persona che, se guardate queste lettere così chiuse, allora per quello che vi ho detto prima, nella lettera chiusa ci sono poche informazioni che entrano, ma quelle che entrano vanno molto in profondità, e questa è la persona che ha le lettere chiuse. Una persona che ha le lettere più aperta, che ne troviamo, invece riceve più informazioni, però resta più in superficie, c'è uno sguardo più ampio, e però e infatti Freud ha fatto quello che ha fatto, perché ha preso pochi elementi ma li ha approfonditi come nessun altro è riuscito a approfondirli. Poi è stato contestato da magari Freud, magari Jung, perché lui aveva, dopo c'è la scrittura di Jung, vediamo se riesco a trovare, eccola qua, che lui ha una scrittura, vedete anche la grandezza della scrittura, questo come scrive piccolo, è tutta una scrittura completamente diversa. Allora si fa fatica a riconoscere anche per la qualità, però vede, questa qui è una O, no? Questa è una A, vero? Haven. Allora questa è una A. Allora vedete che è molto più tonda di quella di prima, di Freud, no? È molto più tonda. E cosa vuol dire questo? Che Freud aveva proprio spaccato il cappello in quattro, andato in profondità, però aveva considerato solo pochi elementi. E Jung cosa ha detto? Ha detto: no, non mi bastano questi elementi, non può essere tutto lì, in quello che hai descritto tu. E ha ampliato lo sguardo, poi loro non si sono neanche tanto capiti perché erano troppo diversi, ma ognuno ha dato un suo contributo preziosissimo. E con questo ne approfitto per dire un'altra cosa della grafologia. Non è che guardando una scrittura uno può dire che una scrittura è meglio di un'altra, o una caratteristica è meglio di un'altra, no? Perché si può dire che Jung è meglio di Freud? Beh, come si fa? Uno ha avuto un suo merito, l'altro ha avuto un altro merito, ma perché qui parliamo di studiosi, di persone. E la grafologia non ha guarda una scrittura, la guarda per capire e per dare uno specchio a quello che la personalità è, senza dare dei giudizi. Quindi a chi dice la scrittura bella, la scrittura brutta, oppure le caratteristiche belle, le caratteristiche brutte, no. Però naturalmente si vede se una persona è in difficoltà o se è in sofferenza, perché ci sono delle caratteristiche della scrittura, naturalmente, siccome la scrittura esprime tutto, se la scrittura è spontanea, dove ovviamente si vede se una persona è in sofferenza, e allora il grafologo, facendo da specchio, può dire: guarda, io vedo che qui ci sono delle difficoltà, e dice e le nomina in maniera precisa. Sei andato in difesa, hai avuto delle brutte esperienze, perché tutte queste cose si vedono, ma qualche esempio speriamo di farlo. Bene, allora parlerei di una cosa, perché adesso devo scegliere un po' gli argomenti, perché chiaramente è ovvio che in una serata non è che si può parlare di 100 segni. Diciamo che cerco di parlarvi di 3-4, e dopo avervi parlato di 3-4 vi parlo un po' del metodo e poi guardiamo le scritture. Mi sono fatto adesso il mio programma, sì. Ecco, poi me lo ricordate se me lo dimentico. Allora, il calibro è un segno che indica la grandezza delle lettere. Vi dico questo perché è uno dei più, diciamo, semplici e immediati da vedere, anche se poi grafologicamente è molto molto importante la velocità e il ritmo, il movimento e la forma. Queste sono delle categorie molto molto importanti che danno proprio un'idea di base di com'è la scrittura. Però queste sono un po' più complesse, vi farò qualche accenno. Intanto affrontiamo però qualcosa di più visivamente immediato. Allora, vedete tutti che questa è una scrittura molto piccola, no? Allora, la scrittura piccola cosa ci dice? Ci dice che una persona è concentrata. Cioè, poi alcune cose poi magari ve le dico e vi sembrano logiche, no? Perché poi in realtà uno magari non ci ha pensato, però. E quindi diciamo che una scrittura piccola è di una persona che è capace molto di concentrarsi, è capace molto di guardare il dettaglio, e combinata ad altre caratteristiche, ecco, adesso mi viene in mente una cosa molto importante che vi dico subito, collegata ad altre caratteristiche si capisce che tipo di concentrazione è, perché in grafologia non si può mai guardare un segno da solo. Allora, questa è la cosa che è importante. In grafologia è così: prima si fa un lavoro di analisi, si prendono tutti i 100 segni, non sono sempre 100 segni presenti, ma quelli che sono presenti in una scrittura, che potrebbero essere 20, 30, 40 segni, cioè che sono le caratteristiche che ci sono in quella scrittura, e poi però bisogna farle dialogare insieme, e quello è il difficile, perché Moretti diceva: per imparare il metodo ci vogliono 10 giorni, per diventare grafologi ci vuole 10 anni. Ci vogliono 10 anni. Cosa voleva dire con questa cosa? Voleva dire che per riconoscere che questa è una scrittura piccola e dare un significato a cos'è una scrittura piccola ci vuole poco, si fa presto, in 10 giorni si fa tutta la carrellata dei segni, si dice questo significa questo, questo significa questo, però non abbiamo ancora capito com'è la persona facendo solo un elenco di caratteristiche. Capiamo veramente la personalità quando diciamo, e adesso lo faccio per voi, quando diciamo, allora, Jung ha una scrittura piccolina, ma ha un ritmo molto veloce, ha una dinamicità nella scrittura. Scusi, posso lasciare? Molte grazie. Una bella idea. Ha una sicurezza, una padronanza, una capacità, una dinamicità nella scrittura che ci dicono che questo calibro è capacità di concentrarsi, di studio, di approfondimento. Se ci fosse una scrittura più lenta, più incerta, questo significato che si dà al calibro piccolo sarebbe tutto un altro. Per dirvi che ci sono i significati separati di ogni segno, ma finché non si fanno dialogare non si capisce com'è la persona. Ecco, allora il mio programma come andava avanti? Allora, calibro. Ah sì, alcuni segni. Poi questa scrittura però non si vede bene. Eccoci qua. Si vede qua? Si vede? Oh, non tanta, perché è blu. Prendiamo. Allora, vedete che io qua. Prendiamo queste? Dai, prendiamo queste. Prendiamo queste. Allora. Allora, questi esempi li ho presi per la forma. Questo è un segno un po' difficile, ma vale la pena di parlarne perché così vi dà un'idea di un'altra cosa, che non ci sono solo le caratteristiche, l'andamento del rigo, il grande, il piccolo, i movimenti, ma ci sono anche altri aspetti. Buonasera. Buonasera. Un altro aspetto è la forma. Allora, queste due scritture, no? Hanno questa particolarità, che questa persona qui, vedete che è molto regolare, molto leggibile. Vedete che questa invece, rispetto al modello scolastico, anche questa però rispetto al modello scolastico si discosta. Non è che scrive in maniera scolastica, c'ha già una personalizzazione. Però questa persona, diciamo, scrive in una forma, no? È più orientata alla forma e questa più orientata al movimento. Prendetela un po' così, prendetela per buona. Ecco. E cosa vuol dire? Vuol dire che qui, diciamo, c'è dietro la mancanza di spontaneità, più un legame a il modello proposto, le regole, il rispondere alle richieste ambientali. E qui invece la persona si è liberata, per così dire, da questo tipo di condizionamenti e scrive preoccupandosi meno della forma e in maniera più spontanea. Ha diciamo questo significato che questa persona qua dice la forma agile al servizio della danza nello spazio, vabbè, lasciamo stare questi commenti, ma comunque questa è una persona più spontanea, più tranquilla, più serena e che non pensa alla forma. Cosa vuol dire? Se volete possiamo fare un gioco di parole, non pensa alla formalità, cioè non è più spontanea, però in grafologia non c'è mai un assoluto, ha tutto un pro e un contro. Questa sarà una persona più affidabile, più sicura. Questa sarà una persona che magari non si preoccupa neanche così tanto che l'altra persona che ha di fronte abbia capito o di essere stato chiaro. Prendete che ci sono tante scritture magari poco leggibili. E allora cosa può dire il grafologo? Che una è più bella dell'altra? È quello che vi ho detto prima, non è quello. Però è importante per la persona che porta una scrittura al grafologo capire com'è la sua dinamica, come funziona, non fare paragoni se questo è meglio di quello. Però sicuramente questa persona sta meglio lei, questo sì che si può dire di questa. Ok. Un contributo molto interessante, molto prezioso, l'ha dato Pulfer, che è un grafologo svizzero. Lui ha dato le indicazioni rispetto agli spazi. Ha visto che c'è, lui ha studiato non solo gli spazi, ma proprio tutta la simbologia della scrittura. In quegli anni ovviamente c'era tutta l'influenza della psicanalisi che stava nascendo e quindi c'era un grandissimo fermento, e allora c'era questa sensibilità di unire anche le varie scuole, i vari studi. E Pulfer cosa dice? Dice: ma c'è una simbologia universale, l'alto, il basso, il destra, il sinistra, l'alto l'idealità, il basso l'istintività, il destra l'andare verso, e anche la figura paterna, cioè dell'azione, invece la parte sinistra più quella delle radici, della figura materna, eccetera, anche delle regole. E l'ha applicata, ha studiato e ha visto che c'è una corrispondenza anche nelle scritture. E quindi adesso prendo le vostre, vediamo cosa trovo. Allora, lui ha visto che, vedete tutti? Più o meno? Sì. Allora, che una persona che lascia un margine a sinistra. Allora, prendiamo prima il destro. Una persona che va fino alla fine della riga è una persona che, diciamo, si spinge verso l'azione. Una che rimane, vediamo se ne trovo una. Questa la prendiamo. Questa è molto bella. Che vedete quanto margine lascia a sinistra? Però è una scrittura molto vivace. E questa è una persona prudente, perché vedete, lascia spazio a destra, lascia spazio a sinistra, ma c'è una sua armonicità, bisogna vedere vari elementi. Comunque solo per lo spazio è così. Questo spazio, diciamo, anche lasciato in alto, così anche qui c'è spazio in alto, no? Indica anche qui un certo rispetto per le regole, un rispetto per i valori. E poi, insomma, anche qui si guardano varie cose, come l'andamento, poi bisogna vedere nel dettaglio. C'è sempre uno studio, io vi dico delle cose così che si vedono di primo acchito, e poi si può andare a vedere sempre più nel dettaglio. Allora, vedete queste due scritture, ad esempio, no? Allora, qui abbiamo sotto, così riprendiamo quello che vi ho detto prima, una persona con un calibro piccolo, è una persona sicuramente che a cui interessa studiare. Ah, poi una cosa vi devo dire: se qualcuno vuol dar confermo, dire qualcosa, è padronissimo di farlo. Poi se non avete voglia non fatelo, perché poi se scopriamo i segreti, insomma, è lo stesso. Comunque, ecco, non dico niente di scabroso, non vi preoccupate. Allora, vedete che questa persona sotto è una persona che ha un calibro simile a quello di Jung, quindi è una persona che sicuramente ha appassionata per il sapere, appassionata per lo studio, capace di andare nel dettaglio. Però questa persona che ha questo calibro qui poi ci dice anche un'altra cosa, ci dice: ma lei come si sente? Perché poi il grafologo si fa sempre queste domande. Allora, se la scrittura è molto fluida, molto dinamica, allora la persona già avrà un certo tipo di sicurezza qui, e quindi qui diciamo c'è una bella fluidità. Però in genere, questo ve lo dico in generale, non tanto riferito a questa scrittura, una persona che ha un calibro piccolo si sente anche un po', come dire, non vuole mettersi in mostra, non è la persona che piace stare sul palco, è un po', diciamo, che quando deve descrivere se stessa tende a minimizzare, uso apposta questa parola, piuttosto che amplificare. Perché la scrittura ce lo dice. Anche questo. Anche questo. Allora, questa è una persona che ha una considerazione di sé diversa da quello che magari la vedono gli altri. Cosa vuol dire? Magari gli altri dicono: ma no, ma sei in gamba, sei... ma no, ma sono quelle persone magari che invece di sé non timida, perché questa non è timida, perché c'è una bella energia, però tendono a dire: no, ma sai, io modeste, ok? La pignoleria lì non si vede? Sì, si vede, ma non dal calibro. No, perché mi sembra molto controllato, molto. Diciamo che la pignoleria non si guarda da tanto dal calibro, ma si guarda dalla forma. Allora, se una persona ha una scrittura molto molto regolare, molto precisa in questo senso, che ripete le forme sempre le stesse, allora è pignola. Non tanto, perché qui, ecco, così vi dico un'altra cosa, mi piacciono le domande, chiedete tutto quello che volete, così per me è più facile. Allora, adesso voi da qua non lo vedete, poi magari la faccio scorrere, ma è una scrittura che ha molte variabilità. E queste variabilità sono ricchezza in grafologia. Allora, la zona media... Sono anche più difficili da confrontare, però sono variabili. Sì, però si misurano. In grafologia tutto si misura. Allora, se io dovessi fare un'analisi di questa scrittura qua, dovrei prendere tutte le lettere minuscole, misurarle in decimi di millimetri, scrivere quanto sono e vedere come variano. Variano di tanto, variano di poco... E poi vedo, per esempio, quanta creatività la persona ha. Più piccola la scrittura, più la creatività è forte. Più la scrittura è grande, la creatività è più esteriore. Adesso vi dico troppe cose. Allora, questa scrittura qui invece, che è una scrittura in stampatello, cioè sarebbe uno script praticamente, questo è un misto, allora dice che è una persona... che è molto più orientata al concreto, perché questo calibro più grande è una persona sicura di sé, più sicura di sé. Poi vabbè, ci sono adesso, vabbè, devo insomma un attimo guardarmela, perché sennò mi fate dire delle cavolate, perché devo guardarla. Ecco, però sicuramente, come dire, questa è la scrittura moderna. Cosa vuol dire moderna? Vuol dire che i ragazzi scrivono sempre di più così, perché riflette, nella scrittura si vede anche il momento storico, perché se ci sono le persone che vivono più nel concreto, nel momento, vivono, no? Questo si riflette nella scrittura, e questa è una scrittura così, un calibro bello grande. Una persona che ha un calibro bello grande vuol dire che è una persona che si sente bene, e ok, ecco, bene. Adesso ne prendiamo altre, perché ce n'era una interessante, questa è molto interessante, non mi ricordo più chi l'ha scritta, quindi vado tranquillo. Allora, questa è bella per questo motivo: arriva fino alla fine del margine. proprio alla fine. Allora, questa è una persona, e vi faccio un po' vi faccio vedere come dialogano gli elementi nella scrittura. Io ve ne faccio dialogare due o tre, ma voi pensate che quando si fa un'analisi bisogna farne dialogare almeno 20 per capire tutta la dinamica. Perché Moretti diceva la grafologia è una scienza ideografica. Cosa intendeva? Che vuole studiare com'è la singola persona, non fa paragoni con altri, vuole vedere quella persona com'è nella sua unicità. Allora, questa persona qua, io vi ho detto prima che lo spazio lasciato a destra indica l'azione, no? Allora, questo altro che azione, questo è un temerario, non so chi è questa. Ah, perché il sesso non si vede dalla grafia, eh? È una delle cose che non si vedono, perché si vede l'identità psicologica e non l'identità fisica. Ci sono delle scritture molto maschili, però scritte da donne, perché hanno l'energia, la grinta, le caratteristiche più maschili. Ma che io guardavo con le due lì, ma che sarebbe stato più donna, sì, a pensare che è quello di sotto, no? E invece è l'inverso, uomo-donna. Esatto, questa sembra una figura, sembra una scrittura femminile, ma questa è una persona che ha un animo con delle caratteristiche, eh? Ragazzo giovane. No, a 40 anni. Ecco, un'altra cosa che noi non possiamo vedere è l'età, perché noi vediamo l'età psicologica, non l'età anagrafica. Allora, l'età psicologica cosa vuol dire? Vuol dire che una persona può avere una scrittura, può avere 60 anni e avere una scrittura di un quindicenne, perché è rimasto limpido, semplice, e quindi il grafologo non può dire l'età, perché dice ma avrà 15 anni, poi ne ha 60. Quindi questa è una delle cose che dobbiamo chiedere. Ci sono alcune cose che il grafologo deve chiedere. La velocità è diversa però. Prego? La velocità di 15 anni o la velocità di 60, di 70. Sì, ma non è detto, Non è detto. Non è sempre detto. Allora, ci sono delle regole generali, nel senso che nella maggior parte dei casi è così. Nella maggior parte dei casi si riesce anche a capire se è una scrittura femminile, l'età, un po', però bisogna stare attenti perché ci si può sbagliare, ci può prendere delle grandi cantonate. Per quello bisogna fare una raccolta di informazioni all'inizio e chiedere delle cose alla persona, perché anche se ci sono state delle malattie, delle cose, perché anche questo è importante, perché se uno ha avuto una frattura e scrive in maniera frammentata, adesso vi faccio l'esempio, l'esempio più banale. Allora, questa è una persona che sembra molto temeraria, però io la guardo meglio e dico ah sì, però ha una scrittura calma. Allora, se questa scrittura con questo margine qui avesse una velocità diversa, sarebbe da preoccuparsi, perché è una persona che proprio si butta in tutto e per tutto. E invece il far dialogare le caratteristiche significa questo: sì, è una persona piena di azione, e ogni tanto questa persona qui si accorge di aver fatto degli errori, di essere andato oltre i suoi limiti, ma siccome ha una buona capacità di riflessione, vedete come comincio a fare un ragionamento su questa scrittura, perché ha un largo tra parole. Il largo tra parole è lo spazio che c'è tra una parola e l'altra, e indica il tempo, adesso non prendetelo alla lettera perché è una cosa anche questa simbolica, il tempo che una persona si prende di riflettere tra un'idea e un'altra idea. E allora più la larghezza tra una parola e l'altra è grande, più la persona riflette. Allora, questa persona ha un grande largo tra parole, vuol dire che sì, è spinta verso l'azione in maniera forte, ma siccome non è calma e siccome è riflessiva, questa cosa gioca solo a favore. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che in grafologia si vede se ci sono delle caratteristiche che rafforzano altre caratteristiche, oppure che le contrastano, in senso positivo o in senso negativo. perché sappiamo tutti che le persone in sé hanno delle contraddizioni, e questo non è un problema, perché le contraddizioni fanno parte di tutti noi. Ma come sono queste contraddizioni? Sono contraddizioni che cozzano direttamente una contro l'altra e fanno soffrire la persona, possibile, o sono delle contraddizioni che arricchiscono la persona? Qui siamo di fronte, per esempio, a un'apparente contraddizione di una persona temeraria e tranquilla. Cioè, uno dice, ma come? È una contraddizione. Ma no, perché le persone hanno talmente tante sfaccettature che niente, cioè tutto è possibile. E però abbiamo questa possiamo dire di questa persona che non siamo preoccupati per questa sua temerarietà, perché con la capacità di riflessione e con la calma che ha, è semplicemente una persona attiva. E quindi decliniamo questa caratteristica del margine insieme alle altre caratteristiche che giocano nella scrittura. Vi dico così per capire come si fa un'analisi, così avete un'idea. Posso fare una domanda? Vedendo quel foglio, riveste un significato, ha un'importanza il fatto che qualcuno ha scritto in orizzontale, qualcuno in verticale, qualcuno ha piegato il foglio? Certo. Allora prendiamo questa. Ne prendo due, così vediamo, eh? Allora, vediamo se la ritrovo, quella che avevo visto prima. Ma dov'è finita? Prendiamo questa, che va benissimo. Allora, vedete queste due. Allora, queste sono delle persone che cosa fanno? Si prendono spazio. Lo occupano tutto. Questo è un segno che ha è una caratteristica che ha tanti significati. Allora, sicuramente chi piega il foglio così è una persona che si prende meno spazio, no? Chi lo occupa così è una persona, come dire, poi appunto adesso devo guardarla perché sennò. Perché sono sempre, come dire, sarebbe da dire più invadente. Potrebbe essere, però dipende dagli altri segni. Allora, io non posso permettermi di dare un giudizio su una caratteristica, perché vi manderei fuori strada voi, ma vado fuori strada anch'io. Perché, allora prendiamo questa scrittura qua. Questa non è una persona invadente, perché ha un ritmo, no? Dove c'è abbastanza controllo. Vedete? Non è tanto regolare, e questo meglio per questa persona, ma è proprio la velocità, no? Ha una velocità, cioè non è velocissima. Allora, se fosse una persona che, ma lasciamo stare l'ipotesi, guardiamo questa. Allora, questa è una persona che si prende tanto spazio, ma non è invadente, perché è anche, c'è un controllo, c'è un, no? E quindi questa persona qui invece ha una scrittura che è piena di vita. Questa è una persona piena di vita, è una persona che è più spontanea, e diciamo che è una persona, questa qui, che vive nel concreto, vive di intuizioni, e sicuramente non è la persona che va a fare il ricercatore universitario, non le interessa proprio. È una persona che ha una scrittura molto curva, quindi una persona accogliente, una persona che gode del rapporto con gli altri, no? Gode della quotidianità, si realizza nel fare, no? E ha anche una certa energia, un certo voglia di contare e voglia di imporsi. Questo lo dico per i tagli delle T. Adesso ogni tanto vi dico qualcosa in più. No, ha delle, dei tagli delle T. I tagli delle T sono importanti. Scusate, non li vediamo di più. Poi si ricopre di chiuse. A voi non serve. Allora, questa ha, se guardiamo per esempio i tagli delle T, ha un... Allora, se facciamo un discorso sui tagli delle T, partiamo da qua, se no studiamo sempre, è una persona che ha varie tipologie di tagli delle T. Cosa vuol dire? Allora, tutte le variabilità nella scrittura sono positive. Se una persona ha un taglio della T molto forte che indica l'impositività, e un taglio della T, adesso passatemi il termine inesatto, timido, non si dice così, in grafologia, solo per farvi capire, magari piccolino, così, vuol dire che è una persona che sa quando è il momento di imporsi e sa quando è il momento di cedere. E quindi è positivo, perché se uno è capace di variare, come, e questo un po' in tutto, anche nello spazio tra parole, per esempio, se uno c'ha sempre un enorme spazio tra parole, mamma mia quanto pensa, quanto riflette, capite? Cioè, è troppo. Quando invece uno un po' ne lascia, un po' ci pensa, un po' non ci pensa. Allora, vediamo qua cosa c'è. Ecco, ma sì, si potrebbero dire tantissime cose. Poi, per esempio, una cosa che si guarda sono le aste, no? Una delle tante cose. Se uno ha le aste dritte, no? È una persona che è autonoma. Qui ci sono parecchie aste dritte. Una persona che ha un'autonomia. Però c'è autonomia e autonomia. C'è un'autonomia di chi sta dritto, sa chi è, sa come camminare e non dipende dagli altri, però in maniera morbida, e chi invece in maniera rigida, che cammina così, sì, è dritto, però rigido. E sono due mondi, eh? Quindi, se voi guardate sul manuale aste rette, vi dice alcune caratteristiche, ma non possiamo noi dire quelle caratteristiche se le troviamo in una scrittura, perché dobbiamo guardare le altre cose. Allora, un conto sono queste aste rette in una scrittura morbida, fluida. Un conto sono le aste rette in Freud. Freud faceva morire chi gli stava vicino, no? Perché aveva le stesse aste rette, magari, di questa scrittura qua, no? Ma in un contesto completamente diverso, capite? Così dai, un po' di cose ve le ho dette. Allora, questa è una scrittura carina, interessante. Allora, qui è una scrittura, vedete che... Allora, facciamo un giro. C'è qualcuno che non ha scritto però, che non ha fatto ecco. Sei fuori da ogni attacco possibile immaginare. Ma sta scrivendo, ha scritto sì, già però, una pagina. Sì. Bello, lo prendo, Allora, questo è interessante perché vedete che aste particolari che ci sono qui. Allora, qui abbiamo delle aste molto caratteristiche, no? Che vanno verso sinistra, invece che essere dritte fanno una piega verso sinistra, ok? Sì, facciamo vedere a tutti. No. Tu non le hai viste? No, le aveva dritte, non le aveva verso sinistra. Allora, quando ci sono le aste così a sinistra, è un movimento di difesa, e qui lo uso questo per farvi un altro ragionamento. Allora, quando uno mette in atto questi meccanismi di difesa, perché? Allora, o uno segue il modello, e il modello è scrivere dritto, o uno scrive col concavo a destra, e quindi si vedete anche simbolicamente, se io faccio così, è un movimento di tensione verso l'altro? Questo è un movimento che crea anche un certo distacco. Cosa vuol dire? Sì, la persona è autonoma, le aste rette, se una persona però ha una scrittura rigida, è anche indice di freddezza. Non è il caso della scrittura di prima, perché c'è la morbidezza, eccetera. Se però io faccio così, cosa vuol dire? Vuol dire che qualcosa è successo. Qualcosa è successo. Allora, qui vuol dire che la persona ha queste aste, a noi ci dice subito. È una persona che c'è qualcosa che la disturba, poi andiamo a vedere anche che cosa, per cui ha dovuto, per proteggersi, mettere in atto questo meccanismo di difesa. E allora noi ci viene la domanda: come mai? E nel corso del nostro lavoro cerchiamo di dare una risposta: da dove viene questo meccanismo di difesa? Perché naturalmente anche qui c'è tutto un mondo, insomma, che chiaramente sarebbe da descrivere, ma non ce la posso fare. Ecco, qui abbiamo un'altra persona che tutte le scritture sono interessanti e affascinanti. Vediamo che c'è un calibro piccolo, vediamo anche qui che è una persona che ha la sua calma, Le asterette? Ha visto cosa ha visto? No, perfetta, inquadrata. Ma non è così perfetta, nel senso che c'è abbastanza movimento. È una persona pacata, vedete i tagli delle T che ci dicono molto? Questa c'ha tutti dei tagli delle T a metà e corte. Vuol dire che non è una persona che si... Vediamo molto, ma... Fatela passare. Fatela passare. Scusa, i tagli delle T possono essere anche semplicemente una questione estetica? No. Che uno scelga di fare la T secondo un certo modo... Allora, se... Allora... Ci sono le scritture non grafologabili. Vuol dire che se uno fa una scrittura artefatta, sarebbe questa, usciamo dal concetto di grafologia, cioè la scrittura deve essere spontanea. Come facciamo a sapere se la scrittura è spontanea? Allora, lo sappiamo se abbiamo, primo, tanti campioni. Adesso io sto facendo una cosa che in grafologia non si può fare, io lo faccio a livello didattico, cioè per farvi capire alcune cose, ma non si può prendere un campione di scrittura e fare un'analisi grafologica, perché bisogna vedere la variabilità della scrittura e bisogna vedere quando la persona scrive per sé degli appunti, delle cose, no? dove non pensa a quello che scrive. E poi un'altra risposta è questa: siccome il nostro cervello, questo l'hanno visto degli studiosi che volevano vedere, specialmente per la grafologia peritale, quella che serve per i tribunali per fare le... hanno visto per i falsi, no? Che loro guardano l'autenticità di una scrittura, che un falsario, non si chiama falsario, si dice falsificatore, no? Che falsifica le scritture, non può tenere sotto controllo più di tre elementi contemporaneamente, non di più. E allora cosa vuol dire? Che se uno comincia a artefare questo, quello e quell'altro, no? Perché sceglie, allora, o sceglie proprio un modello di scrittura, ma si vede che non c'è spontaneità, cioè poi da altri tipi di indici si vede che è una scrittura artefatta. Ci sono delle scritture, tante scritture adolescenziali, per esempio, che in un certo tipo di fase della vita hanno bisogno di imitare la scrittura di un altro per sentirsi sicuro, sicura, ma si vede che non è una scrittura anche spontanea. La scrittura dei nonni, per esempio, che erano già molto inquadrati in un certo modo. Ok, facciamo un discorso su quello. Allora, ovviamente bisogna sapere, per fare un'analisi grafologica, qual è il modello. Più informazioni si hanno e più sicuri siamo di fare una buona analisi. Se il bambino, quando ha iniziato a scrivere, può essere anche un adulto, ma che raccogliamo, ha avuto difficoltà. Addirittura sarebbe molto interessante sapere che metodo, insomma, però prendiamo le informazioni che possiamo avere. Però soprattutto dobbiamo sapere che modello, da quale modello la persona è partita. Allora, abbiamo la scrittura italiana e la scrittura tedesca da noi, per esempio, e partiamo già da due modelli diversi. La scrittura tedesca, allora, ha un'inclinazione verso destra maggiore e ancora risente dell'influenza del gotico. Quindi dobbiamo saperle queste cose, perché se vediamo una D scritta con il ricetto in una scrittura tedesca, ha un significato; nella scrittura italiana ne ha un altro. Perché? Perché nella scrittura tedesca può semplicemente essere che si è riferito al modello insegnamento. Se un italiano scrive una lettera così, vuol dire che quel ricetto ce l'ha aggiunto, quell'asolina ce l'ha aggiunta. Esatto. E ogni aggiunta, vediamo cosa troviamo qua. Questa qui, per esempio, no? Ogni aggiunta è assolutamente significativa. Sono i piccoli gesti che danno un'impronta forte. Quindi quelli vanno molto considerati. Si chiamano ricci, che sono le finali, quei piccoli segni che. E quello uno non ce l'ha sotto controllo. A meno che proprio non abbia una scrittura artefatta. Però all'early il grafologo dice: guarda, mi dispiace, questa scrittura io non posso fare l'analisi, non è spontanea. Perché poi Moretti ha fatto, ce l'ho anche lì, ma sarebbe una noia farvele vedere, ha fatto 8 leggi fondamentali per dire quando si può fare un'analisi grafologica. Una di queste leggi è che la scrittura sia spontanea, per esempio, no? Quindi, scusi, ad esempio, sul fatto del carattere piccolo o grande, c'è anche un condizionamento proprio del secolo. Ad esempio, io ho appena perso mio padre che aveva 101 anni, di conseguenza i miei nonni erano dell'800 e un mio zio ha conservato delle lettere, dei bigliettini, delle cose scritte dei miei, che sono della metà dell'800. All'epoca era proprio un fatto tecnico, c'era poca carta, per cui erano costretti, facevano queste lettere col fogliettino piccolo, perché appunto c'era la carta, certo. E quindi erano costretti a scrivere con dei caratteri minuscoli. Sì. Quindi lì ovviamente la spontaneità non poteva uscire. Ecco, la spontaneità esce però in altri aspetti. Perché, allora, io vi ho parlato di alcuni aspetti un po' per facilitarvi, perché se vi dovevo parlare del ritmo, parlavo solo del ritmo, perché è più complicato da spiegare. Allora vi ho spiegato la grandezza, però sono gli aspetti poi in fondo meno interessanti, meno importanti. Se una persona ha un andamento, vediamo se ne trovo una, e adesso devo vedere di non... Allora, qua non c'è quello che volevo dirvi. C'è la scrittura di Clinton. Allora, vediamo qui cosa c'è. Ma io, guarda, mi trovo meglio con le vostre. Allora. Perché poi... Volevo anche scannerizzarle, poi... Raccogliere scannerizzarle, ma era troppo complicato. Vuole che le scanniamo? No, ormai... Noi siamo operativi sempre, guarda. Le lasciamo. Allora... anche nelle scritture che sembrano uguali, perché c'era nell'Ottocento una rigidità nel seguire il modello, e questo è una cosa che bisogna assolutamente considerare, perché è chiaro che una scrittura contemporanea o una scrittura anche solo di 30 anni fa partono dai due modelli, e anche di un'impostazione diversa, nel senso che la spontaneità che ci può essere adesso nel scegliersi, no? Però cosa succede? Che per esempio quando si scrive c'è il movimento di rilassamento, no? Di rilascio muscolare e poi quello invece di discendente dove si mette più forza proprio per una questione muscolare. Allora si scende premendo, per premere dall'alto al basso, il movimento di pressione è così e poi si rilascia salendo. Cosa nasce? Nasce una L, no? Una L che sale e poi scende. Se anche il modello dicesse che bisogna salire leggeri e poi scendere in maniera più pesante, a parte che nessun modello entra in questo dettaglio, questa è una cosa grafologica, comunque che la L semplicemente c'è l'asola, allora comunque anche in un modello molto molto rigoroso si vede che uno sale molto sottile e preme molto di più nel fare il tratto discendente, uno che li fa tutti e due uguali, e questo anche in un modello assolutamente molto rigoroso. E per esempio la forza che uno ci mette, che poi col pennino aveva il risultato, parliamo delle scrittine dell'Ottocento, di allargare il tratto, mentre invece noi abbiamo il solco nel foglio, queste sono cose che non sono indipendenti dal modello, e su questo noi guardiamo. È chiaro che non è che possiamo mettere a paragone una scrittura dell'Ottocento con una di adesso e dire di una scrittura dell'Ottocento che è poco spontanea se segue di più il modello, perché siamo fuori strada. No, perché infatti ho visto anche confrontando la scrittura di mio padre, appunto, che quando mio padre è nato nel 13, quando aveva 20 anni ho trovato un bigliettino che aveva una scrittura, un genere di scrittura, poi ha scritto fino a 95 anni e poi nel corso degli anni, nel corso del tempo era completamente... Ecco, questo mi suggerisce un'altra cosa che mi piace dirvi, che la scrittura cambia come cambiamo noi. Allora la nostra scrittura, allora ci sono persone che rimangono uguali a se stesse, cioè che sono abbastanza, come dire, voi prendete una persona abitudinaria, una persona che sta nei suoi binari, avrà una scrittura che varia di meno, ma comunque varia, perché come varia il nostro fisico anche la scrittura ci accompagna, perché è sempre l'espressione di noi. Se abbiamo meno energia, la scrittura esprimerà meno energia. Se abbiamo un tratto meno definito, è perché noi avremo, diciamo, l'anziano che la fragilità. Un momento, a volte anche un momento di debolezza. Di fragilità, il momento, no? Di debolezza, oppure l'anziano che avendo meno energia, no? E avendo meno determinazione, perché insomma questa è anche la saggezza. Questa cosa nella scrittura assolutamente si rispecchia. Allora, se l'anziano, ma il giovane che è abituato solo a digitalizzare. Allora, sul giovane ci sono tanti discorsi da fare, tanto è vero che la grafologia dell'età evolutiva è proprio uno studio a parte. Cosa succede nel giovane? Intendi nel bambino o nell'adolescente? Cosa vuoi sapere? Tutte e due. Tutte e due, ma sei... va bene. Allora tutte e due. Allora, il bambino è uno studio a parte, perché lì non è che si può vedere la personalizzazione della scrittura che ancora non c'è, ma si vede com'è la capacità di rispondere al modello proposto. E allora, se il bambino si discosta dal modello proposto, perché... per mille motivi, o perché non ha la padronanza spaziale, quindi è disordinato, ma questa è una definizione sbagliata, cioè non riesce a trovare gli spazi perché non li ha interiorizzati, non ha interiorizzato la lateralità, non ha, eccetera, allora scriverà in un certo modo. Se per esempio, allora, una cosa, vi ho parlato dell'argo tra parole, che è la capacità di riflessione dell'adulto, io vi ho parlato solo della scrittura dell'adulto. Se un bambino lascia spazi tra parole è isolamento, indica che il bambino sente e si sente isolato, isolato in famiglia, isolato dal gruppo, perché da bambino non ha sviluppato la capacità razionale di pensare di un adulto, e allora lì entrano tutte altre caratteristiche da considerare. E quindi si guarda il discostamento dal modello, quale difficoltà ha, che forma la scrittura ha, e se, se un bambino, ci sono anche lì tante cose da considerare, ma sono tutt'altre. L'adolescente, posso solo dire una cosa, quel bambino si aiutano tanto anche col disegno, certo, il bambino, anche l'adulto, mi sarebbe piaciuto farvi anche disegnare, ma vi facevo sforzare troppo e allora vi ho graziati. Esatto. Ma ci sono dei test, diciamo, dei test, allora in psicologia si chiamano test proiettivi, invece ci sono dei test che sono dei disegni molto semplici che vengono visti però in chiave grafologica. Lo spazio, come è disposto, come dicevo prima, il tratto, l'energia. I particolari. Prego? I particolari. Quello che si vede dal calibro si vede anche nel disegno. Se una persona fa. Se la consegna di disegnare una stella, fa una stella grossa così, non avrà un calibrino piccolo così, per dire, no? E quindi c'è anche la possibilità di vedere il disegno. L'adolescenza. Allora, chiaramente l'adolescenza è anche quella, va studiata in maniera molto, diciamo, va affrontata con dei criteri diversi. Perché? Perché c'è una variabilità spaventosa. Può anche non esserci, ma può esserci una variabilità spaventosa. Può esserci disorientamento, disordine, può esserci incoerenza, può esserci, che va valutata in maniera diversa rispetto all'adulto, perché il periodo è diverso e quindi la ricerca di un'identità, tutte queste cose vanno considerate. Allora, se un adulto mi inizia a scrivere con un calibro grande e finisce con un calibro piccolo, prima è tutta inclinata a destra e poi a metà foglio la inclina tutta a sinistra, è da considerarsi in un certo modo. Se lo fa un adolescente, sta cercando, si sta mettendo alla prova. Il rispecchiamento è questo. All'adolescente non si dirà tu sei così, perché gli si darebbe una mazzata in testa pazzesca e anche una cosa veramente che non corrisponde alla verità. Però si può dire, allora vedo questo e vedo questo, vedo un movimento e un altro movimento, vedo che ti senti in maniere diverse, e questa è l'adolescenza, non è che non diciamo niente di strano, no? E nella scrittura si riflette tutto, però lo sguardo che si ha su una scrittura adolescenziale è tutta diversa. Non ci si preoccupa come se fosse una persona di 40 anni che non sa prendere una decisione, poi ci sono anche gli indecisi, ma che una volta si mette sulla difensiva, una volta si mette in accoglienza, una volta si mette a tutte le disponibilità di questo mondo, poi si chiude in maniera spaventosa. Cioè questa variabilità così forte in un adulto è preoccupante, in un adolescente no. E quindi all'adolescente non si dirà l'analisi di personalità in senso stretto come si fa all'adulto, ma si dirà in questo momento quello che vedo, quello che stai vivendo è questo, in questo momento si fa la fotografia del momento. Non so se ti ho risposto a quello che volevi. Quindi non è molto predittivo. È predittivo in alcune cose, in alcune caratteristiche fondamentali, perché Moretti ha distinto tre tipologie di segni. Quelli li chiama sostanziali, che riguardano la struttura della persona, e quella anche nell'adolescente rimangono, e non sono la variabilità delle assi, ma sono per esempio l'energia vitale, quella rimane come variabile. Se una persona scrive in maniera sottile, scriverà in maniera sottile sempre, a meno che non è incavolato nero oppure che è in grande tensione, perché poi in grafologia non c'è niente di semplice, c'è sempre da considerare tante cose. Fatte queste due precisazioni, se uno ha una scrittura sottile ce l'avrà anche da adolescente. E sottile vuol dire che ha tanti cellule recettive nelle dita che reagisce in maniera a un piccolissimo stimolo. Quindi una persona che è così, che scrive in maniera filiforme, si dice, il segno si chiama così, è perché fisicamente è così. Una cosa che non vi ho detto, e ve la dico poi forse chiudiamo, no, ma qualche altra domanda volentieri, è che Moretti ha visto anche una correlazione fisica, no? Cioè, lui dice che se non si considera il collegamento tra scrittura e corpo, manca una parte. Quindi lui dice, sempre rimanendo in questo esempio, delle caratteristiche strutturali rispetto a quelle modificanti o accidentali, usa queste parole per definire poi le altre tipi di segni che variano rispetto a quelli che invece rimangono sempre fissi. Una persona che ha una grande recettività, che scrive in maniera sottile, avrà anche capelli sottili, per esempio. Una persona che ha una scrittura che si chiama parallela, cioè che è tac tac tac, tutto sempre molto regolare, avrà anche le gambe dritte, per esempio, no? Cioè tutto, anche la testa quadrata, e anche la testa quadrata. Cioè, Moretti poi aveva sviluppato anche, ha scritto un manuale sulla grafologia somatica, si chiama così, dove effettivamente la persona che ha una chiusura avrà le labbra più sottili, la persona invece che ha un'ampiezza e una disponibilità maggiore avrà la bocca più larga, e eccetera eccetera eccetera. Questo poi è tutto un altro mondo, ma ve l'accenno per dire che anche quello fa parte della grafologia. Ma ti ho risposto, no, dai. Gli insegnanti si lamentano che i ragazzi non riescono più a usare le... Allora, però su questo è un discorso perché... pazzesco, ma cerco di stringere in mezzo minuto. Allora, se gli insegnanti non guardano la postura corretta della mano e la mobilità del polso, che permette la capacità di sviluppare un movimento per la libertà che si dà, che si pensa di dare, e uno si blocca il polso e scrive così, come fa a acquistare la mobilità? Cioè, è un problema che poi c'è cause, si lamentano che scrivono male, ma bisogna insegnargli a scrivere. Non sanno più scrivere. Eh no, ma perché bisogna, capisci? Se voi guardate come uno tiene la penna, ma anche gli adulti, vi accorgete che non ci siamo. Se voi avete il polso bloccato e scrivete così, come fa a avere mobilità? Anche la scrittura diventerà contratta. Prego. No, io volevo chiedere, ho visto che sotto ogni esempio c'è sempre scritto anche il titolo di studio. Sì. Questo ha un'influenza supposta, nel senso che si suppone che a un maggior titolo di studio uno abbia, perché le cose vanno continuamente modificandosi, abbia una maggiore familiarità con la scrittura, nel senso che scrive di più. Quindi se una persona, come succedeva una volta, ha la quinta elementare e ha una scrittura che procede in maniera più faticosa, insomma cambia, perché se è un laureato che scrive in maniera così è perché lui dentro di sé ha un blocco. Se invece è una persona che non è abituata a scrivere, e adesso bisogna chiedere questa cosa, infatti io la chiedo sempre, perché adesso non c'entra più il titolo di studio, ma c'entra quanto uno scrive. Allora non è più il titolo di studio, ma bisogna dire quanto scrivi a mano, perché adesso la domanda è cambiata. Anche la professione, no? Anche al lavoro, non è che... Anche la professione, quanto incide lo strumento di scrittura? Bravo, perché bella domanda. Mi sono accorto come la mia scrittura varia a seconda della scorrevolezza dell'avviro. Certo. Se trovo un avviro che va via con un chiaro, o ha una punta fine, scrivo in genere più piccolo. Certo, perché la punta è fine e scorre bene. Se invece bisogna, affinché il carattere, diciamo, ha un inchiostro più secco, allora già bisogna cercare maggior forza. Allora io chiedo con che tipo di strumento uno ha scritto, e poi faccio un'altra cosa: gli do una bic media, che è la mia misura, per quello voi vi ho dato una bic media, perché se una persona scrive con questo, io so come reagisce lo strumento. E altrimenti ritorniamo a quello che vi ho detto prima: non è che con un campione, cioè se uno mi porta una cartolina, io cosa posso dire? Posso dire che sì, è una persona espansiva, è una persona accogliente, piuttosto che spigolosa, piuttosto che stanca. La stanchezza si vede molto chiaramente, se è una stanchezza strutturale, momentanea, se è una persona che ha una memoria più visiva, piuttosto che... Ma stop, non si va più in là. Per fare un'analisi grafologica bisogna avere tanti campioni. Bisogna avere tanti campioni. Ma non si usa neanche più la stilografica. No, ma infatti la stilografica non la prendo neanche in considerazione. No, no, è la BIC che prendo in considerazione. La BIC. Per quello, vedete, le ho comprate per voi. Sono nuove, nuove. Io ho una scrittura molto creativa, diciamo, per dire bene che è brutta. Quando prendo la stilografica, che devo scrivere in una certa maniera, ho la mia scrittura bella. Perché io ho una bella scrittura, sì. Però a spazio di scrivere con le biro... Allora... Faccio due cose su questo. Devo obbligarmi, sì, a scrivere bene. Allora, però non è una scrittura così spontanea e che dice così tanto di lei. Allora, perché in grafologia non è il fatto di scrivere... Allora, perché i medici hanno una scrittura... genere hanno una scrittura da gallina? Io non so se ci sono medici qua. Non si offendono. E i giudici no, tanto... Ecco, i giudici. Ma perché? Perché un medico, e poi torna alla sua risposta... Un medico non può fare il medico se è puntiglioso, se vuol sapere tutto, se tutto deve essere preciso, perché l'uomo non è così, non sceglierà la professione di medico. Allora una persona che ha una scrittura illeggibile, cioè da medico, è una persona che ha un intuito spiccato, no? E che questa cosa lo aiuta nella professione di medico, ma non solo lo aiuta, lo interessa per come è fatto a studiare medicina. Ma ci sono le eccezioni, ci sono le insegnanti che hanno delle scritture da medico e dei medici che hanno scritture da insegnanti, ma sono delle eccezioni. Gli insegnanti perché hanno una scrittura regolare e chiara e leggibile? Perché l'insegnamento richiede il fatto di essere capaci di comunicare in maniera chiara, e c'è il segno chiara nella scrittura che dice che una persona ha l'esigenza di farsi capire, di essere chiara. Io c'ho chiara nella scrittura. Per dire, è il farmacista che sa leggere la scrittura del medico. I farmacisti sono dei grandi, sono ben allenati. La firma, non vi ho detto niente sulla firma perché non vi ho fatto firmare. Ecco, però che è fondamentale. Ecco, non vi ho fatto firmare per una questione, sì, di privacy. E poi vi chiedo se le posso tenere i vostri capolavori, sì, poi chi li vuole riprendere, se li riprenda, perché così io magari, a me piace lavorare con materiale vivo e non con Freud e Freud ormai. La firma è proprio un discorso molto importante, perché lì c'è proprio un'espressione di sé molto forte. Uno può avere una scrittura molto regolare, molto controllata, e una firma completamente diversa, completamente, non so, potremmo raccogliere un foglio solo di firme, così poi, per esempio. Facciamo? Sì. Mentre parlo lo fate e poi lo butto? No, lo tieni. Io ho già firmato, firma. Perché non ho... Allora, no, lo butto perché magari non tutti sono d'accordo. Magari, ecco, scrivete la firma dell'assegno, Adesso c'è la penna. Forse il medico, adesso, dot, scrivo dot, forse il medico non so niente. No, no, la firma normale, se uno scrive dot, non c'è problema. E mentre voi firmate io vi parlo della firma. Ad esempio, io, se devo firmare, che so, l'assegno in banco, un documento... Esatto. Faccio una cosa, se devo firmare una lettera o una cartolina, firmo, esatto, un'altra. Allora, scrivo tutte e due? No, solo quella dell'assegno. Allora il discorso è questo. Attenzione, che quando uno scrive, non mi sono dimenticato, vi parlo della firma. Quando uno scrive per sé o per un altro, la scrittura necessariamente cambia, perché se io mi metto in dialogo con l'altro è chiaro che ho un'esigenza maggiore di farmi capire. E quindi se scrivo per me... È una cosa formale è un po' esagerato dire così, ma l'esigenza di farmi capire, sì. e allora cambierò la mia scrittura, perché ci sono persone che hanno una scrittura particolarmente intuitiva, particolarmente brillante, particolarmente creativa, che si sforzano, poi tolgono la loro creatività nel scrivere una lettera a qualcuno o anche un contratto, ma non è più la loro scrittura spontanea. E il tempo magari che si ha per scrivere, nel senso che adesso lei dettava abbastanza veloce, molto veloce. Meglio, meglio, perché io ho fatto un po' apposta a scrivere veloce, perché allora non pensate, perché se è troppo lenta voi avete il tempo di pensare e di controllare il vostro modo di scrivere, quindi scrivere veloce è più significativo. La firma, la firma può essere coerente col testo o non coerente col testo. Cosa vuol dire? Uguale al testo o diversa? Allora, se per esempio la scrittura, cosa abbiamo qua? Abbiamo una scrittura così, molto regolare, molto leggibile, poi abbiamo una firma così, abbiamo una persona che ha delle che si controlla troppo, che c'è una preoccupazione di, magari, adesso ne dico una perché poi bisognerebbe vedere la scrittura, non è che si può fare delle teorie astratte. Sì, sì, ecco, lei è mondo, forse è un signore. Il signore, il signore, poi non vogliamo escludere. Cosa volevo dirvi? Sì, allora se c'è un'incoerenza tra la scrittura e la firma, bisogna andarla a vedere molto bene, perché possono esserci vari significati. Allora, adesso dirlo così in teoria è una cosa veramente quasi da non fare, perché si fa delle teorie che poi in realtà bisogna proprio vedere scrittura e firma, ma vi faccio lo stesso qualche esempio tanto per avere un'idea. Se una scrittura è veramente molto più grande, per esempio, del testo, vuol dire che una persona ha l'aspirazione e non se la concede, ve la metto così. Se è una scrittura più intuitiva e più controllata, c'è questa incoerenza che stride alla persona, e allora dobbiamo segnalargliela. E dobbiamo dire: ma tu chi sei? Poi c'è una differenza tra il nome e il cognome, perché il nome è la propria identità, il cognome riguarda la famiglia, e possono esserci delle grandi differenze come possono non esserci. Se ci sono delle grandi differenze, e adesso lo vediamo quando è finito il giro, vediamo da che cosa sono, come sono fatte queste differenze. Ci voleva anche il cognome allora? Sì. Ah, allora noi non l'abbiamo. Io sì, l'ho fatto. È lo stesso. Allora, si trovi in una correlazione con le scritture? Beh, c'è sicuramente, se volete che facciamo un giochino. Qual è di chi? Qual è di chi? Possiamo divertirci. Allora, ne ho già vista una che non c'è nelle scritture. Allora, vedete la prima? Sì. Allora, la prima tira una riga. Questa riga qui non l'ho vista in nessuna scrittura, quindi per forza non c'è. È già una cosa diversa. Allora, sapete cosa vuol dire quando uno tira una riga così? No. Allora, se uno ha da scrivere le lettere e non le scrive e tira una riga, una doppia M, lascia passare. Eh? Una doppia M, io ho visto quante volte lascia passare. Tirano le riga. Sì, ma non solo. Solo volare. Sì, va bene. Indovinate, andate avanti. Siete streghisti. Oh. Sì, sì, va bene tutto, non è vero. No, tira dritto, non guarda i dettagli. E poi, se la scrittura è veloce, è impazienza. Allora, ma come mai nella scrittura non c'è e nella firma? Ma perché nella firma si lascia andare, no? E poi comunque, siccome nel nome non c'è, nel cognome sì, già ci potremo fare un ragionamentino, no? Nella famiglia tira dritto. Se vogliamo chiedere a questa persona se si ritrova. Ma, sono io. Cosa dici? Ma probabilmente è perché nel cognome ci sono delle lettere che non è quello, mi capita perché spesso di, perché potresti farlo anche nel nome, ecco. E nel nome non lo fai, e poi hai maggior controllo nel nome, minore e più spontaneità nel cognome. È come se il cognome è, come dire, ci sono due elementi nel cognome: uno, più impazienza e meno guardare il dettaglio, dare per scontato, ma c'è anche un gesto di dinamicità. È come se nella famiglia tu ti sentissi più, come dire, ti lasci più andare rispetto alla scrittura. La scrittura è più controllata, e vabbè, poi mi fermo qui perché poi bisognerebbe vedere altre cose. Il fatto che sia la seconda parola che mi spinge a essere più veloce. Ma tu hai provato a fare il contrario? Prima. Ecco, allora proverò. Prova. Perché normalmente firmo sempre con prima il nome, ecco, poi il cognome. Siccome c'è il doppio di invertire, siccome no? Io invece uso tutte e due le lingue, allora, mi succede spesso di fare una volta in un modo e una volta in un altro, ma mi osserverò e poi vi dirò. Grazie, grazie. Ecco, per esempio, questa è una scrittura, questa è una firma che sale e potrebbe essere, vediamo se la trovo, però qua perdo tempo, mi sa. Questa non ve l'ho fatta vedere, che era carina. Cavolo, anche questa era bella, mi è sfuggita. Va bene. Vabbè, adesso non mettiamo troppa carne al fuoco. Sale. Allora, una scrittura che sale è segno di tantissime cose. Ma ve ne dico due o tre possibili. Allora, entusiasmo, idealismo, poi una cosa che mi sono dimenticato, me ne sono dimenticato un sacco, ma insomma. Allora, Moretti dice: i segni, prendiamo il segno ascendente, vedete, è una parola che sale. Come vi ho detto all'inizio, c'è una misurazione dall'1 al 10. E lui per ogni grado dà un significato diverso. Quindi non c'è solo il segno e il significato, ma ci sono 10 significati che riguardano quanto questo segno si manifesta, in quale forza. E poi c'è la modifica, come vi ho fatto vedere prima, il significato a seconda di come gioca con gli altri. Quindi capite quante variabili. Allora, se un ascendente è 5 decimi, proprio misurato, perché si misura proprio, c'è una regola come si misura proprio in distanza, eccetera, rispetto al rigo superiore, eccetera. Vuol dire ottimismo. Vedi, ho tirato fuori un altro aggettivo. Se è 10 decimi, vuol dire fuga dalla realtà. Capite che diverso che è? No? Non accettazione della propria realtà. Desiderio di aspirazione di una realtà che non esiste. Essere sulle nuvole, evasione. Allora, se la persona ha un ascendente nella firma e non ce l'ha nel testo, allora ci chiediamo come mai non ce l'ha nel testo e ce l'ha nella scrittura. Qui ci sono dei bei ricci, delle belle asole che sottolineano, non necessarie dal modello, non richieste dal modello. Adesso c'è allora la quart'ultima firma che indicano, la faccio passare, sennò, che indicano proprio un desiderio espansivo. Un gesto in più che può essere un desiderio di sottolineare la propria personalità, e magari nel testo non c'è, la scrittura è molto sobria. capite? Allora, quando uno firma dice tanto di sé, e il confronto tra la firma e il testo chiaramente è importante, perché se le stesse caratteristiche ci sono, vuol dire che la persona è uguale a se stessa. Se non ci sono, bisogna farsi delle domande: come mai è diversa? Perché la risposta può essere molto varia, non è che per forza negativa o positiva, può essere positiva, può essere negativa. Bisogna sempre farsi delle domande e cercare la risposta. Qualcuno ha definito la grafologia anche una scienza indiziaria. E con questo, cosa di che ore sono? Io non ho rotto l'orologio ieri. Se abbiamo infranto, allora dai, possiamo fermarci. Siccome siamo in un condominio, allora cerchiamo poi di chiudere in un orario. No, io avevo bisogno di dice basta. Grazie.